cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Berlino su Consumi, No Kids e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano di Memetic Lab. Ciao Alessia. Un saluto a tutti. Dunque, nel bel mezzo di Prenzlauer Berg, il quartiere berlinese più cool, ritenuto anche parecchio child friendly, proprio perché abitato da moltissime giovani coppie con bambini, bene, proprio qui il caffè Niesen ha segnato una forte discontinuità, tanto da far dire a un blogger che a Berlino, dopo il muro, la nuova linea di demarcazione sono i bambini. Questo locale infatti è stato il primo a istituire al suo interno un'area vietata ai minori, per così dire, una stanza separata con un ingresso indipendente in cui c'è spazio per una decina di persone rigorosamente adulte, come dice il cartello sulla porta. L'iniziativa ha fatto subito parlare di sé ed è stata accolta con piacere dai molti berlinesi che in questi luoghi pubblici ci vanno non solo nei momenti di svago, ma anche sempre più spesso per lavorare. Christine, la proprietaria, lei stessa mamma di un bambino di 9 anni, ci tiene a sottolineare che la sua non è stata una scelta politica, ha voluto solo tener conto delle esigenze espresse da più di uno dei suoi clienti abituali, che non trovavano più rilassante bere, leggere o lavorare con la presenza di bambini che negli ultimi tempi erano diventati piuttosto numerosi. Grazie Alessia. Patrizia, risvolti commerciali a parte, l'obiezione che molti fanno a questo movimento è: c'è chi se lo può permettere e chi no, vale a dire in Svezia e Francia, dove da tempo ci sono politiche per la famiglia, nessuno scandalo. In Italia, dove i servizi alla famiglia sono fortemente deficitari, non a caso l'indice di natalità è bassissimo, forse è prematuro o perlomeno contraddittorio. Che cosa ne pensi? Penso che non si tratti di una esclusione penalizzante per gli esclusi, cioè i bambini e relative famiglie. C'è un'enorme offerta per loro e non è certo questa nicchia di servizi sottratta che può fare la differenza in termini di servizi alle famiglie. Certo è che se le politiche No Kids sono maldestramente comunicate, quindi formulate come divieto o non esplicitate, si possono generare malintesi e soprattutto in Italia, dove la cultura della famiglia è molto più forte rispetto agli Stati Uniti o ad altre nazioni europee, ma poi, come dicevi, paradossalmente i servizi alla famiglia e l'indice di natalità sono indicatori che l'Italia non è un paese né di bambini né per bambini, ma il comunicato, il No Kids, diventa un rischio di incorrere in critiche e cattive recensioni che sappiamo quanto possano pesare sulla reputazione di brand e di aziende. Quindi diversificazione dei servizi e estensione al target No Kids, sì, ma ben comunicata e altrettanto ben gestita.